quando ecco un uomo di Dio venne da Giuda a Betel con una parola del Signore, mentre Geroboamo si trovava presso l'altare per bruciare aromi. Su ordine del Signore, quegli gridò contro l'altare: «Altare, altare, così parla il Signore. Ecco, un figlio nascerà alla casa di Davide che si chiamerà Giosia. Questi immolerà su di te i sacerdoti delle alture che bruciano su di te gli aromi e brucerà su di te ossa umane». Nello stesso tempo egli diede anche un segno, dicendo: «Questo è il segno che il Signore ha parlato. Ecco, l'altare si spezzerà e si spanderà la cenere che vi si trova sopra». Quando il re udì la parola che l'uomo di Dio aveva lanciato contro l'altare a Betel, stese verso di lui la mano, ritirandola dall'altare e dicendo: «Afferratelo!» Ma la mano che aveva teso contro di lui si seccò e non poté più farla ritornare a sé. L'altare si spezzò e la cenere si sparse giù dall'altare, secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato su ordine del Signore. Il re intervenne di nuovo e disse all'uomo di Dio: «Placa il volto del Signore tuo Dio e prega per me affinché la mia mano ritorni a me». L'uomo di Dio placò il volto del Signore e la mano del re ritornò a lui come era prima. Quindi il re disse all'uomo di Dio: «Vieni con me a casa e ristorati, ti darò anche un regalo». Ma l'uomo di Dio disse al re: «Anche se mi dessi la metà della tua casa, non verrò con te. In questo luogo non mangerò pane né berrò acqua, perché così mi è stato ordinato da parte del Signore. Non mangerai pane né berrai acqua né ritornerai per la strada per cui sei venuto». Egli dunque se ne andò per un'altra strada e non ritornò per la strada per cui era venuto a Betel. A Betel dimorava un vecchio profeta, e i suoi figli vennero e gli raccontarono tutto quello che l'uomo di Dio aveva fatto in quel giorno a Betel, e riferirono a loro padre le parole che egli aveva detto al re. Questi domandò loro: «Per quale strada se n'è andato?» I figli gli mostrarono la via per cui se n'era andato l'uomo di Dio venuto da Giuda. Allora egli disse ai suoi figli: «Sellatemi l'asino». Gli sellarono l'asino ed egli vi salì sopra. Rincorse l'uomo di Dio e lo trovò seduto sotto il terebinto. Allora gli domandò: «Sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda?» Quegli rispose: «Sono io». L'altro gli disse: «Vieni con me a casa per mangiare un boccone». Ma quegli rispose: «Non posso tornare con te, né accompagnarti, né mangiare pane, né bere acqua in questo luogo, poiché così mi è stato ordinato da parte del Signore. Non mangerai pane, né berrai acqua, e neppure ritornerai percorrendo la strada per cui sei venuto». Ma quegli riprese: «Anch'io sono profeta come te, e un angelo mi ha detto per ordine del Signore: riconducilo con te a casa tua perché mangi pane e beva acqua». Così lo ingannò. Egli ritornò allora con lui, mangiò pane nella sua casa e beve acqua. Ora, mentre essi stavano seduti a tavola, una parola del Signore arrivò al profeta che lo aveva fatto tornare indietro, ed egli gridò all'uomo di Dio venuto da Giuda: «Così dice il Signore: poiché ti sei ribellato all'ordine del Signore e non hai osservato il comando che ti aveva dato il Signore tuo Dio, ma sei ritornato, hai mangiato pane e bevuto acqua nel luogo dove egli ti aveva detto di non mangiare pane né di bere acqua, il tuo cadavere non entrerà nel sepolcro dei tuoi antenati». Dopo che ebbero mangiato pane e bevuto acqua, gli sellò l'asino ed egli fece ritorno. Mentre se ne andava, trovò per la strada un leone che lo uccise. Il suo cadavere giacque sulla strada, mentre l'asino gli stava a fianco ed anche il leone stava a fianco del cadavere. Ora alcuni uomini passarono di là e videro il cadavere giacere sulla strada e il leone che stava a fianco del cadavere. Essi andarono a diffondere la notizia nella città in cui abitava il vecchio profeta. come l'udì il profeta che l'aveva fatto tornare dalla sua strada, disse: «Costui è certamente l'uomo di Dio che ha trasgredito l'ordine del Signore e che il Signore ha dato in preda al leone, il quale lo ha sbranato e ucciso secondo la parola che il Signore gli aveva detto». Disse poi ai suoi figli: «Sellatemi l'asino». Glielo sellarono, ed egli andò e trovò il cadavere che giaceva sulla strada, l'asino e il leone che stavano a fianco del cadavere. Il leone non aveva divorato il cadavere, né sbranato l'asino. Il profeta prese il cadavere dell'uomo di Dio, lo caricò sull'asino, lo riportò indietro in città per farne il lamento funebre e seppellirlo. Depose il cadavere nel suo sepolcro e fece il lamento funebre su di lui: «Ahi, fratello mio!». Dopo averlo seppellito, disse ai propri figli: «Quando sarò morto, mi seppellirete nel sepolcro in cui è sepolto l'uomo di Dio. Porrete le mie ossa accanto alle sue ossa, perché certamente si realizzerà la parola che egli ha pronunciato per ordine del Signore contro l'altare di Betel e contro tutti i santuari delle alture che si trovano nella città di Samaria». Anche dopo questo fatto, Geroboamo non si allontanò dalla strada cattiva, ma continuò a scegliere dal popolo comune sacerdoti delle alture. Riempiva la mano a chiunque lo desiderasse e quegli diventava sacerdote delle alture. Questo fu il peccato per la casa di Geroboamo, che la condusse alla rovina e allo sterminio dalla faccia della terra.